il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. A tutti sarà capitato di avere dei vestiti o delle scarpe vecchie non più utilizzabili e di chiedersi dove portarli. Da tempo si è diffuso nel Veneto il sistema del recupero tramite i cassoni che sono posizionati lungo le strade e nelle piazze, il cui ricavato spesso va a fini di solidarietà. Ma che fine fanno questi vestiti, scarpe, accessori? La Caritas diocesana di Padova ha pensato di dare trasparenza a quanto viene raccolto e da qualche giorno è attivo un sito che si chiama appunto chefinefanno.it che racconta dove vanno a finire questi vestiti e quanto viene riposto nei cassonetti gialli che riportano il logo Caritas. Ne parliamo oggi con il direttore della Caritas diocesana di Padova, Don Luca Facco. Benvenuto Don Luca. Grazie. Da parecchi anni la Caritas intanto ha intrapreso questa strada del recupero, del riciclo di vestiti, scarpe, accessori vari. Ecco, perché questo e cosa avviene realmente? Beh, tradizionalmente le Caritas nelle parrocchie raccolgono gli indumenti che sono... La gente deve sapere questo, che hanno due possibilità: o da una parte dove hanno una Caritas parrocchiale dove possono consegnare direttamente i vestiti, glieli possono consegnare e questi vengono ridistribuiti alle persone povere presenti nel territorio. Si parla soprattutto di vestiti ben messi, puliti, sì, e con una serie di accorgimenti. Esatto. Sì, vestiti che le persone scelgono di donare gratuitamente alle Caritas nelle parrocchie e dove c'è la possibilità di una Caritas che fa questo servizio. L'altra possibilità è invece di donare questi vestiti attraverso invece la possibilità di depositarli nei cassonetti con il marchio Caritas. Questi invece non vengono destinati direttamente ai poveri, ma vengono raccolti, stoccati, perché vengono trattati come rifiuti dalla legge e una parte riesce ad essere venduta e genera un valore. E questo serve per noi per alimentare progetti di solidarietà. Ecco che come Caritas abbiamo scelto di accogliere l'invito che ci fanno le cooperative sociali che raccolgono gli abiti, di metterci il nostro marchio, perché crediamo innanzitutto nel valore della differenziazione dei rifiuti. Certo. Secondo, crediamo nel valore del generare lavoro, perché le cooperative sociali occupano persone deboli e fragili. E terzo, appunto, perché una parte del ricavato che le cooperative poi ci donano è il 7% di quello che loro ricevono. Noi lo destiniamo a progetti di solidarietà locali qui nella diocesi. Ecco, le cooperative sono la Città Solare, Cooperativa Il Grillo, Cooperativa Ferracina, Monterico e Cooperativa Sociale Insieme. Questi sì. Operano in territori diversificati all'interno della diocesi di Padova. Esattamente. Che è una diocesi che tocca 5 province, quindi... È una diocesi estesa, ogni cooperativa fa un accordo direttamente con la municipalizzata locale, per cui fanno una convenzione tra cooperativa e municipalizzata. All'interno della nostra diocesi di Padova ci sono 3 municipalizzate. La singola cooperativa fa un accordo, poi queste cooperative chiedono alla Caritas la possibilità di utilizzare il marchio Caritas. Noi abbiamo scelto di relazionarci in particolare con Conf Cooperative, che coordina tutte queste cooperative. Conf Cooperative verifica la reale serietà di ogni singola cooperativa che chiede il marchio Caritas e queste cooperative lavorano proprio attraverso la raccolta degli indumenti usati. Ecco, il sito chefinefanno.it, che cosa si può trovare su questo sito? In questo sito si possono trovare proprio la descrizione del servizio, come è impostato tutto questo servizio, quali sono le cooperative coinvolte, la rete delle cooperative che sono coinvolte, in particolare il comune e qual è la cooperativa che opera in quel comune, e terzo il valore che viene generato, per cui in particolare la descrizione dei tre obiettivi che questo servizio si è dato, ripeto, la solidarietà, l'attenzione all'ambiente e il lavoro. E poi, per chi desidera, anche i contatti possibili, se qualsiasi persona desidera entrare in contatto con una di queste cooperative per capire dove sono i cassonetti, per fare delle segnalazioni, c'è la possibilità di contattare le diverse cooperative sociali. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Scivola su quella schiena ruvida, ma don't stop, chiudi gli occhi e vedi un po' se c'è gente pronta a rivedere il mondo che non ho. La mia mente sfoga spazi e ride e si rilassa su una nuova era che avrà quella vibrazione giusta. Ci crederò, svelerò, scoprirò il mio animo. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana di Padova, perché è stato messo in linea un sito internet, chefinefanno.it, che racconta dove vanno a finire vestiti, scarpe, accessori vari che vengono inseriti nei cassoni lungo le strade, i cassoni gialli con il logo Caritas, per il recupero degli indumenti usati. E dicevamo che da qualche anno esiste questo servizio. I cittadini ne usufruiscono oppure c'è ancora da fare per promuoverlo? Sicuramente abbiamo notato un aumento di materiale depositato presso i contenitori, per cui questo è un buon segno, vuol dire che questo materiale non va nel rifiuto secco, ma viene distinto, e questo è proprio un grosso attenzione anche all'ambiente, e oltretutto questi vestiti poi in qualche modo vengono anche riutilizzati e venduti, e questi generano valore, per cui è un rifiuto che può generare valore. Abbiamo notato un aumento di donazioni, per cui da questo punto di vista crediamo che sia aumentata anche la sensibilità e l'attenzione da parte dei cittadini nella differenziazione dei vestiti. Ma la facilità che c'è adesso appunto nel disfarsi di questi sacchi di indumenti mettendoli in questi cassoni non fa sì magari che qualcuno che prima li avrebbe portati direttamente alla Caritas, che li poteva utilizzare per i poveri, crei come conseguenza che magari meno vestiti arrivino direttamente alle Caritas, appunto per questo tipo di servizio, proprio perché è più facile disfarsene buttandoli nei cassoni. Fino ad ora non abbiamo colto questa problematica. Se i cittadini hanno la possibilità di destinarlo direttamente alla Caritas locale, noi siamo molto, molto contenti, perché proprio il servizio della Caritas è proprio quello di concretamente nel territorio di poi redistribuirli. Ma siccome non possiamo accogliere tutta questa tonnellate, certo, di vestiti, credo che anche questa opportunità, anche questo servizio, è un servizio parallelo che non va a offuscare l'altro. Cioè sono due strade e tutte e due per noi importanti e da sponsorizzare. Poi sta al cittadino, avendo la possibilità di portarlo in parrocchia, se lì nella propria parrocchia non c'è questo servizio, di depositarlo e di donarlo presso il cassonetto. Certo, e magari anche cercando di fare una cernita tra i prodotti, che tra quello che si ha, e quindi capire che cosa può andare in un cassonetto, che cosa magari è meglio portare direttamente al volontario Caritas, allo sportello Caritas. Esattamente, lì sta proprio nella consapevolezza del cittadino e nelle possibilità che ha poi di muoversi nel proprio territorio. Ecco, la Caritas quindi non fa solo solidarietà, ma cerca di promuovere anche uno stile di vita, e tra cui anche appunto la cultura del recupero, del non spreco. State facendo anche altre iniziative oltre a questo del recupero degli indumenti usati? Sì, nel senso che la Caritas proprio tenta di coinvolgere, di sensibilizzare, proprio a partire anche da esperienze molto, molto piccole, però concrete, di sensibilizzare tutti i cittadini. In particolare proprio ci stiamo concentrando sul tema del lavoro. Anche questa iniziativa l'abbiamo scelta di sponsorizzarla proprio perché genera lavoro, pensando che le cooperative sociali, che coinvolgono in particolare le fasce più deboli dei lavoratori, crediamo che sia importante dare questo marchio, perché oggi è fondamentale in qualsiasi modo tentare di generare lavoro. Insieme a questa iniziativa stiamo, insieme con altri enti, la Fondazione Anton Veneta, la Fondazione Cariparo, la Provincia di Padova, la Camera di Commercio e come diocesi, siamo impegnati in particolare nel Fondo Straordinario di Solidarietà, che finanzia opportunità lavorative, per cui attraverso quello che la legge ci permette finanziamo le borse lavoro presso le aziende, i lavori di pubblica utilità presso i comuni, l'utilizzo dei voucher per associazioni, parrocchie, cooperative, lavori di pubblica utilità e le dotti lavoro. Crediamo che in questo momento bisogna che tutti ci concentriamo sul creare opportunità lavorative. Ecco che chiunque, o un'azienda, un imprenditore, un commerciante, un artigiano, una parrocchia, un'associazione, può fare la propria manifestazione di interesse presso il sito della Fondazione Cariparo, e poi il volontario prende questa manifestazione di interesse e fa partire la possibilità di segnalare questa manifestazione, questa opportunità lavorativa, o all'assistente sociale o alla Caritas del territorio. Ecco che per noi è importante proprio in questo tempo essere solidali, ma soprattutto generando e creando opportunità lavorative. Quindi abbiamo visto che anche comunque l'attenzione al proprio stile di vita è di per sé, può essere un'azione di solidarietà. Purtroppo ci dobbiamo fermare qui, speriamo di poter approfondire in futuro ancora questi argomenti. Ti ringraziamo Don Luca per la disponibilità. Grazie a voi e buona giornata. Passiamo adesso ad alcune notizie. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, ha reso noto che ben 3 miliardi di euro sono stati spesi in Italia nel 2012 per l'acquisto di prodotti alimentari a chilometro zero, ovvero acquistati al mercato degli agricoltori o direttamente nelle aziende agricole. Con un contributo quindi al contenimento degli sprechi alimentari e alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stimato in circa il 30%. Questo perché non si verificano le perdite dovute alla conservazione intermedie in magazzino o durante i lunghi trasporti. Acquistare prodotti a chilometri zero è anche un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all'economia e all'occupazione locale, ha affermato Marini, che ha sottolineato come l'Italia abbia perso negli ultimi 20 anni oltre 2 milioni di ettari di terra coltivata per effetto della cementificazione e dell'abbandono. Secondo i dati diffusi questa settimana da Veneto Agricoltura nel suo tradizionale report riassuntivo sullo stato dell'agricoltura veneta, il settore agricolo della nostra regione ha confermato anche nel 2012 l'andamento degli ultimi anni, a partire da un aumento dell'occupazione pari ad un 7,5% in più di lavoro dipendente rispetto al 2011, e questo nonostante continui il calo del numero delle imprese, scese di un altro 1,9%. È cresciuto anche il valore della produzione agricola veneta, che è stato di 5 miliardi di euro, ovvero 1,5%, nonostante il calo produttivo di molte colture dovuto alla siccità estiva, compensato tuttavia dall'aumento dei prezzi agricoli. Si tiene a Piave di Sacco, da giovedì 20 a domenica 24 giugno, la quinta festa ambiente della Saccisica, ospitata negli spazi della parrocchia di Sant'Anna. Tutte le sere sono in programma musica, laboratori e convegni, oltre a uno stand con cucina sia vegetariana che tradizionale, con prodotti biologici a chilometri zero. Informazioni sul sito internet www.legaambientepiove.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e potete risentirci sul sito internet www.pluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.